ad alta voce. Ilya Shilton legge La morte di Ivan Ильич di Lev Nikolaevich Tolstoy. Traduzione di Chiara Natalucci. Così era trascorsa la vita di Ivan Ilyich nei primi 17 anni di matrimonio. Era ormai un vecchio procuratore che aveva rinunciato ad alcuni trasferimenti in attesa di un posto più desiderabile, quando un avvenimento inaspettato e spiacevole venne a turbare la tranquillità della sua vita. Ivan Ilyich aspettava il posto di presidente in una città universitaria. Invece venne scavalcato da Hoppe, che ricevette quel posto. Ivan Ilyich, irritato, iniziò a protestare pubblicamente per l'accaduto e a litigare con Hoppe e i suoi diretti superiori. I colleghi divennero freddi nei suoi confronti e alla nomina successiva lo superarono di nuovo. Era il 1880. Quell'anno fu il più difficile nella vita di Ivan Ilyich. Quell'anno rivelò da un lato che il suo stipendio non era sufficiente, dall'altro divenne palese che tutti lo avevano dimenticato e che quella che lui considerava una grandissima spietata ingiustizia per gli altri era qualcosa di ordinario. Persino suo padre non ritenne suo dovere aiutarlo. Ivan Ilyich sentiva che tutti lo avevano abbandonato e guardavano alla sua condizione e al suo stipendio da 3.500 rubli come una cosa normale e addirittura fortunata. Solo lui era consapevole che le ingiustizie subite, le infinite lamentele della moglie e i debiti che aveva iniziato ad accumulare vivendo al di sopra delle proprie possibilità rendevano la sua situazione ben lontana dall'essere normale. L'estate di quell'anno, per non gravare sulle finanze, andò con la moglie a trascorrere l'estate in campagna dal cognato. In campagna, lontano dal lavoro, Ivan Ilyich per la prima volta provò non solo noia, ma proprio un'angoscia insopportabile e decise che non si poteva vivere così e che era necessario prendere qualche misura definitiva. Durante una notte insonne passata in terrazzo a camminare, Ivan Ilyich decise di andare a Pietroburgo per trovare un impiego in un altro ministero per vendicarsi di coloro che non lo avevano tenuto in considerazione. Il giorno seguente, nonostante i tentativi della moglie e del cognato di dissuaderlo, partì per Pietroburgo. Si era messo in viaggio con un unico obiettivo: chiedere un posto da 5.000 rubli di stipendio. Non aveva in mente nessun ministero o ruolo in particolare, gli serviva solo un posto da 5.000 rubli in amministrazione, in banca, per le ferrovie, per un'istituzione dell'imperatrice Maria, persino per la dogana, ma voleva assolutamente 5.000 rubli e voleva assolutamente lasciare quel ministero dove non sapevano valorizzarlo. Ed ecco che il viaggio di Ivan Ilyich si coronò di un successo meraviglioso, inaspettato. A Kursk sedeva in prima classe F.S. Ilyin, un conoscente che lo informò di un recente telegramma ricevuto dal governatore di Kursk, in cui si diceva che a giorni si sarebbe verificata una rivoluzione al ministero. Al posto di Piotr Ivanovich avrebbero nominato Ivan Semyonovich. La presunta rivoluzione, oltre al significato che aveva per la Russia, aveva un significato particolare soprattutto per la vita di Ivan Ilyich. La promozione di una figura nuova come quella di Piotr Petrovich e di conseguenza del suo amico Zakhar Ivanovich era cosa estremamente favorevole per Ivan Ilyich. Zakhar Ivanovich era infatti suo collega e amico. A Mosca la notizia trovò conferma. Arrivato a Pietroburgo, Ivan Ilic incontrò Zahar Ivanovich e ottenne la promessa di un ottimo posto nel suo precedente ministero di giustizia. Una settimana dopo telegrafava alla moglie: Zahar al posto di Miller, alla prima riunione ricevo nomina. Grazie a questo rimpasto, Ivan Ilic ricevette inaspettatamente, nel suo precedente ministero, una nomina che lo faceva salire di 2 gradi rispetto ai suoi colleghi, 5.000 rubli di stipendio e 3.500 di indennità di trasferimento. Tutta la rabbia che aveva provato per i nemici di un tempo e per l'intero ministero svanì e Ivan Ilic ora era davvero felice. Tornò in campagna contento e soddisfatto come non lo era da tempo. Anche Praskovia Fyodorovna si rasserenò e i due firmarono una tregua. Ivan Ilic raccontò di come tutti lo avessero festeggiato a Pietroburgo, di come tutti quelli che erano stati suoi nemici fossero stati disonorati e ora si umiliavano davanti a lui, di come tutti lo invidiassero per la sua posizione e in particolare di quanto tutti lo amassero a Pietroburgo. Praskovia Fyodorovna lo ascoltava e faceva finta di credere a tutto quello che lui raccontava. Non lo contraddiceva, era solo intenta a pianificare la sua nuova vita nella città in cui si sarebbero trasferiti. E Ivan Ilic era felice di vedere che i piani della moglie coincidevano con i suoi e che la sua vita stentata acquisiva di nuovo quel carattere vero e proprio di allegra piacevolezza e decoro. Ivan Ilic si trattenne in campagna per poco. Il 10 settembre doveva prendere servizio e aveva bisogno di un po' di tempo per ambientarsi. Doveva trasferire tutte le cose dalla provincia, c'erano cose da comprare e cose da ordinare. In poche parole, doveva sistemarsi così come aveva deciso nella sua testa e quasi come Praskovia Fyodorovna aveva deciso in cuor suo. E ora che tutto si era sistemato così bene e che moglie e marito avevano gli stessi obiettivi e che si vedevano poco, erano diventati amici come non succedeva dai primi anni della loro vita coniugale. Ivan Ilic voleva portare con sé la famiglia sin da subito, ma le insistenze della sorella e del cognato, che all'improvviso si erano fatti tanto gentili e cordiali con lui e con la sua famiglia, fecero sì che Ivan Ilic partisse da solo. E Ivan Ilic partì. La sua felice situazione e l'essere in totale accordo con la moglie, e una cosa rafforzava l'altra, lo mettevano in uno stato d'animo allegro che non lo abbandonava mai. Trovò un grazioso alloggio proprio come lo avevano immaginato. Stanze ampie con i soffitti alti all'antica, uno studio comodo e grande, camere per la moglie e per la figlia, uno studio per il figlio, tutto esattamente come avevano pensato. Ivan Ilic si occupò personalmente dell'arredamento dell'abitazione, scelse la carta da parati, comprò i mobili, per lo più antiquati, ai quali attribuiva un particolare stile come il faux, la tappezzeria, e tutto cresceva e si avvicinava all'idea che si era fatto. Quando i lavori furono a metà, l'arredamento aveva già superato le sue aspettative, già intuiva quel carattere come il faux, elegante e affatto volgare, che il tutto avrebbe assunto una volta finito. Addormentandosi, si immaginava come sarebbe stata la sala. Guardando il salotto, non ancora finito, già vi vedeva il camino, lo specchio, l'étagère, le sediole sparse qua e là, i piatti alle pareti e i bronzi quando ogni cosa sarebbe stata al proprio posto. Lo rallegrava il pensiero di quanto Pascia e Lisenka, che avevano il suo stesso gusto, si sarebbero stupite. non se lo sarebbero davvero aspettato. Riuscì in particolare a trovare e ad acquistare a poco robe vecchie che però davano all'abitazione un aspetto particolarmente nobile. Nelle sue lettere descriveva la situazione in maniera peggiore di quanto non fosse in realtà, per creare un certo effetto sorpresa. Era talmente occupato che persino il suo nuovo impiego, che amava molto, lo interessava meno di quanto si aspettasse. Durante le udienze gli capitava di avere degli attimi di distrazione. Iniziava a pensare alle tende, se fosse meglio tenerle dritte o raccolte ai lati. Queste cose lo tenevano talmente occupato che spesso era lui stesso a cambiare la disposizione dei mobili o a sistemare le tende. Una volta si arrampicò su una scala per far capire al tappezziere come voleva appendere le tende. Inciampò e cadde, ma da uomo forte e agile qual era, si tenne e andò solamente a sbattere con il fianco sulla maniglia della finestra. La botta gli aveva fatto male, ma la cosa era passata in fretta. Durante tutto quel periodo Ivan Ilic si sentì allegro e in salute. Scriveva: «Mi sembra di aver perso 15 anni». Pensava che i lavori sarebbero finiti a settembre, invece si protrassero fino a metà ottobre. L'alloggio era squisito. A dirlo non era solo lui, ma anche tutti quelli che lo vedevano. In sostanza, aveva fatto come la gente non del tutto ricca, che vuole assomigliare alla gente ricca e quindi finisce davvero per assomigliarle. Stoffe damascate, ebani, fiori, tappeti e bronzi, giochi di chiaroscuro. Insomma, aveva fatto tutto quello che le persone altolocate avrebbero fatto per assomigliare alle altre persone altolocate. E nel suo alloggio tutto era così simile che nulla si poteva distinguere, ma a lui tutto ciò sembrava avere un tocco particolare. Quando poi andò a prendere i suoi alla stazione per condurli nella nuova casa e il lacchè con la cravatta bianca aprì la porta nell'anticamera addobbata di fiori e poi loro entrarono in salotto e nello studio, non potevano smettere di meravigliarsi. Quella sera stessa, quando, bevendo il tè, Praskovya Fyodorovna gli chiese, fra le altre cose, come fosse caduto, Ivan Ilich scoppiò a ridere e iniziò a imitare il volo che aveva fatto e quanto il tappezziere si fosse spaventato. Non per niente, sono un ginnasta, un altro al posto mio si sarebbe ammazzato. Io, invece, mi sono solo fatto un po' male qui. Quando mi tocco mi fa ancora male, ma sta passando, è solo un livido. E iniziarono a vivere nella nuova casa e una volta che si furono ambientati, come sempre accade, sembrava che in realtà mancasse una stanza e le nuove finanze, come sempre accade, non bastavano. Sembrava che mancasse ancora qualcosina, tipo 500 rubli, ma per il resto andava tutto bene. Il primo periodo, quando ancora non tutto era finito e rimaneva ancora qualcosa da fare, era trascorso in modo particolarmente sereno. C'era qualcosa da comprare, da ordinare, da spostare, da mettere a punto. Nonostante moglie e marito fossero a volte in disaccordo, erano entrambi talmente soddisfatti e tante erano le cose ancora da fare che tutto si risolveva senza grossi drammi. Quando i lavori furono completamente finiti e non c'era più niente di cui occuparsi, la situazione diventò un po' noiosa e iniziò a sentirsi la mancanza di qualcosa. Così presero a fare nuove amicizie, si crearono delle nuove abitudini e la vita si riempì di nuovo. Ivan Ilic Trascorreva la mattinata in tribunale e tornava a casa per pranzo. E durante il primo periodo fu di buon umore, nonostante la casa fosse motivo di apprensione. Si irritava per ogni macchia sulla tovaglia o sul damascato o per una tenda strappata. Si era impegnato così tanto per sistemare quell'alloggio che ogni danno lo faceva star male. In generale, la vita di Vanilich andava come doveva andare, secondo il suo credo. Era leggera, piacevole e decorosa. Si alzava alle 9, prendeva il caffè, leggeva il giornale, poi si metteva la divisa e andava in tribunale. Là aveva già preso forma il gioco in cui lavorava. Ivan Ilic vi rimase subito incastrato. Le richieste, i certificati della cancelleria, la cancelleria stessa, le udienze pubbliche e quelle in camere di consiglio, in tutte queste faccende bisognava essere in grado di eliminare quell'aspetto triviale, proprio dell'esistenza, che rovinava sempre il regolare svolgimento del lavoro. Non ci si poteva permettere di avere con la gente nessun tipo di rapporto che non fosse lavorativo. Il motivo delle relazioni doveva essere soltanto lavorativo e le relazioni stesse dovevano essere soltanto lavorative. Per esempio, arrivava una persona che voleva sapere qualcosa. Ivan Ilich, poiché non era suo compito, non avrebbe potuto avere nessuna relazione con quella persona. Ma se quella relazione avesse potuto manifestarsi su carta intestata come con un giudice, allora Ivan Ilich avrebbe fatto tutto il possibile e soprattutto avrebbe mantenuto una parvenza di affabilità umana, ossia di cortesia. Non appena la relazione lavorativa finiva, finiva anche tutto il resto. Ivan Ilich possedeva la capacità, sia per esperienza che per talento personale, di separare il lato lavorativo dalla sua vita privata e la padroneggiava così bene da permettersi, come un virtuoso, per scherzo quasi, di mischiare i rapporti personali e quelli lavorativi. Se lo permetteva, perché sentiva di essere sempre in grado, ogni volta che voleva, di mettere di nuovo in rilievo l'aspetto lavorativo e trascurare quello umano. Questo compito era per Ivan Ilich non solo leggero, piacevole e decoroso, ma persino virtuoso. Durante l'intervallo fumava, beveva il tè, parlava un po' di politica, un po' di questioni generali, un po' di carte e soprattutto di nomine. E stanco, ma con la sensazione del virtuoso che ha rifinito egregiamente la sua parte come uno dei primi violini dell'orchestra, se ne tornava a casa. A casa la figlia era uscita con la madre o c'era qualcuno in visita. Il figlio era al ginnasio, preparava la lezione con gli insegnanti privati e studiava accuratamente quello che doveva studiare. Tutto procedeva bene. Dopo pranzo, se non c'erano ospiti, a volte Ivan Ilich leggeva un libro di cui tutti parlavano, mentre la sera si metteva a lavorare. Leggeva le carte del processo, consultava le leggi, confrontava le deposizioni e le catalogava in base alle leggi. Per lui non era una cosa né noiosa né divertente. Sarebbe stato noioso se invece avesse potuto giocare a carte, ma se le carte non c'erano, allora era sempre meglio che starsene da solo o in compagnia della moglie. Motivo di soddisfazione erano per Ivan Ilich quei pranzetti in cui invitava importanti signori e signore di elevata condizione sociale e quel tempo passato con loro, del tutto simile a un passatempo qualunque per quelle persone, rendeva il salotto di casa sua simile a tutti gli altri salotti. Una sera si tenne da lui anche un ballo e Ivan Ilich si divertì e andò tutto bene. Ci fu solo un enorme litigio con la moglie per via delle torte e dei cioccolatini. Praskovia Fyodorovna si era fatta il suo piano, mentre Ivan Ilich aveva insistito per prendere tutto in una pasticceria molto cara, dove comprarono svariate torte. E litigarono proprio perché le torte erano avanzate e il conto della pasticceria era stato di 45 rubli. Fu un litigio grande e spiacevole, tanto che Praskovia Fyodorovna gli disse: Sei un cretino e noioso anche. Allora lui si mise le mani nei capelli e nominò con stizza il divorzio. Ma quella sera furono allegri. Era presente la migliore società e Ivan Ilitch ballò con la principessa Trufonova, sorella di quella donna famosa per aver fondato la società Allevia il mio dolore. Se le gioie del lavoro erano le gioie dell'amor proprio, le gioie in società erano le gioie della vanità. Ma le vere gioie di Ivan Ilitch erano le gioie delle carte. Egli confessava che dopo tutto, dopo qualsiasi avvenimento triste, la gioia che come una candela ardeva davanti a tutte le altre era giocare a carte con buoni giocatori e quieti compagni, e sicuramente in quattro, in cinque non veniva bene, anche se faceva finta che gli piacesse, e condurre una partita intelligente e seria quando le carte entravano, per poi cenare e bere un bicchiere di vino. Quando andava a dormire dopo aver giocato, soprattutto se c'era stata una piccola vincita, vincere tanto era disdicevole, Ivan Ilitch si stendeva con uno stato d'animo particolarmente felice. Vivevano così. A casa loro si era riunito il meglio della società e il loro salotto era frequentato sia da persone importanti sia da giovani. Riguardo alle loro conoscenze, marito, moglie e figlia erano del tutto unanimi e senza essersi messi d'accordo si sbarazzavano allo stesso modo di qualsiasi conoscente e parente sciattone che si presentava con smancerie nel loro salotto addobbato con piatti giapponesi alle pareti. Presto questi amici sciattoni smisero di farsi vedere e dai Galavin rimase solo il meglio della società. I giovani corteggiavano Lysanka e il giudice istruttore Petrissev, figlio di Dmitri Ivanovich Petrissev, nonché suo unico erede, cominciò a corteggiare Lisa, così che Ivan Ilitch ogni tanto ne parlava con Praskovia Fyodorovna e si chiedevano se magari non fosse il caso di portarli a fare un giro in troica o allestire uno spettacolo. Vivevano così e tutto procedeva senza grossi cambiamenti. Tutto andava benissimo.